nel mondo, 262esima trasmissione dedicata agli emigrati. Nuovo incontro col gruppo corale Buie di Buia. Abbiamo avuto già modo di mettere in evidenza in una precedente trasmissione l'attività di questo gruppo corale diretto dal maestro Mario Monasso, che si prepara ora, assieme ai danzerini della stessa ridente località, Buia, a presentare alla fine del corrente agosto 1975 una rassegna folcloristica friulana al Palazzo dei Congressi a Firenze, ove è ben ricordata la bravura delle due apprezzate formazioni. Dal programma, già predisposto per tale impegnativa manifestazione, abbiamo scelto tre composizioni, cominciando con Suspir dall'anime di Oreste Rosso e La preghiera alla Vergine di un'anima che si sente sola e abbandonata mentre le prorompe intorno la vita. Thank you. La balconela che ascolterete ora, cari emigrati, si può definire un colloquio tra due innamorati e del compianto maestro Luigi Vritz, per lunghi anni insegnante elementare e istruttore di cori e bande musicali a Buia. Frut Maman, ancora di Oreste Rosso, è il saluto accorato, struggente della madre al figlio morto in guerra e sepolto lontano lontano. Anche le campane all'imbrunire lo salutano. Frut Maman. Lontano Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.